Lunedì vengo con un ventre piattissimo, cara Nicoletta, da fare invidia persino a te che sei in forma sempre smagliante qui, minuscolina. Minuscolina, mi hai detto, guarda che... Io invece con la cucina, come tu sai bene, non è che sia proprio la regina del focolare, si dice così? E mi chiamavano Patanella quando ero ragazza, quindi... Patanella, beh, un nome carino però, morbido. La conosco, dottor Roberto. Ormai ci conosciamo bene, no? Siamo una coppia, una coppia professionale, naturalmente. Dottor, dove mi sono infilata? Io non ho sentito niente. Però, ragazzi, quanto mi piace mangiare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo. Svapa anche lui, Vasco, come ha dimostrato in un clipino qualche tempo fa sul suo profilo Facebook, ma in buone compagnie anche Giorgio Faletti, che è stato nostro ospite, la porta sempre al collo, e poi ci hanno provato anche Irene Grandi e Max Gazzè, Luca Argentero sembra abbia aperto addirittura un negozio e poi insomma Johnny Depp, vogliamo dimenticarlo, tutti Leonardo DiCaprio, la cinematografia insomma. Beh, ci racconta di grandi svapatori, si dice così. Grandi, belli e famosi. Esatto. Avrete capito che stiamo parlando questa mattina delle sigarette elettroniche, che sono un po' andate sulle montagne russe proprio come la borsa, Nicoletta. Nonostante il gradimento degli svapatori sia rimasto invece molto solido. Pensate che il 2012 è stato un vero e proprio anno da record per la loro commercializzazione, tanto che sono nati 6.000 negozi e si è messo in moto un giro d'affari per ben 350 milioni di euro. Ma adesso il quadro sta completamente cambiando. C'è chi smette di fumare e c'è chi fuma per non fumare. Ma cosa fuma chi fuma per non fumare? E chi fuma per non fumare, fuma o non fuma? Abbiamo voluto tradurre in uno scioglilingue i dubbi e le domande relative a quella che attualmente è diventata l'alternativa preferita alle bionde, la sigaretta elettronica, che tra divieti e polemiche continua a far parlare di sé come una vera star. E infatti è addirittura finita nel paniere utilizzato dall'Istat per misurare l'inflazione, la cui riformulazione è stata resa nota proprio pochi giorni fa. Ci sono anche le... I SIG, come devo dirlo, tu che sei un po' più... Secondo me si chiamano proprio così. I SIG, un po' come email, no? E così vengono chiamate adesso nel gergo nuovo. La chiamerà così anche Johnny Depp, pensa... Perché non l'abbiamo intervistato? Guarda, ci è venuto in mente. Aveva un impegno oggi. Comunque, insomma, anche la sigaretta elettronica nel nuovo paniere Istat, insieme alle cialde per il caffè, ormai molto in voga, e a una serie di altri prodotti, come, così, sentite qua, i sacchetti ecologici, i giornali online e i notebook ibridi. E invece il tailleur, ahimè, è fuori. Me ne farò una ragione. Insomma, come si dice, un classico andato in fumo. Esatto. 800 24 00 24. A proposito di fumo, voi fumate, svapate, chiamateci. Ma chiamateci naturalmente anche se volete smettere o se avete ricominciato, state accarezzando l'idea di riprovare a smettere. E raccontateci anche se avete visto nello svapo un'occasione di lavoro. Diteci com'è andata. Avete aperto un negozio, vi siete affiliati in franchising ad una catena e restate con noi perché oggi parliamo di voi e con voi, ma anche di tutti coloro che hanno scelto come opportunità di lavoro l'opzione franchising, non solo per lo svapo. Se avete questa esperienza, chiamateci o scriveteci. Essere e benessere. La sigaretta elettronica mi ha trasformato la mente. Non sono più dipendente e adesso il presente lo vivo con lei. La sigaretta elettronica mi fa... Buongiorno a Cosimo Colasanto, autore del primo libro sul fumo elettronico, come smettere di fumare con la sigaretta elettronica, Editori Internazionali Riuniti, un libro che, di cui abbiamo parlato, appena era uscito, che racconti dubbi e curiosità, spiegate a chi vorrebbe in un colpo solo provare a dare un calcio alle bionde e dire addio a posaceneri traboccanti di cicca, all'alito pestilenziale, al fiato corto e soprattutto ai rischi per la salute. Tra l'altro Cosimo è un collega e scrive anche nel portale Nostro Amico, Salute 24. Esatto. Insomma, siamo un po' parenti, Cosimo, diciamolo, ciao. Ti dobbiamo chiamare zio, buongiorno Cosimo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Colgo la palla al balzo e approfitto della tua presenza per subito infilare nella nostra conversazione un'osservazione di denari, Cosimo, perché si saranno tolti un peso dal cuore i tanti commercianti che hanno letto la pronuncia del TAR del Lazio la scorsa settimana rispetto alla cosiddetta maxi tassa del 58% sul fumo elettronico, una novità che aveva fatto prendere delle posizioni ovviamente molto forti da tutti i diretti interessati. Ci sono state delle manifestazioni, l'ultima poche settimane fa a Milano, contro questa imposta. Ci vuoi riepilogare un po' la situazione? Com'è andata? Cosa è successo a questa tassa che ci sembra sia entrata dalla porta per poi uscire dalla finestra, Cosimo? Sì, certo. Diciamo che finalmente c'è qualche buona notizia e qualche spiraglio positivo per il settore, che sicuramente ha vissuto dei mesi molto difficili, soprattutto a partire dall'estate scorsa, con la previsione di questa maxi tassa che è entrata in vigore il 1° gennaio del 2014, una maxi tassa del 58,5% su tutti i prodotti, non solo sulle sigarette elettroniche ma anche sui liquidi e persino, cosa contestatissima, sulle batterie, cariche batterie, custodi e laccetti, insomma tutti gli accessori che fanno parte del mondo della e-sig. Certo che lo Stato realtà, proprio dove può pescare pesca, non c'è niente da fare. Certo. E quindi? E in questo settore, che è in qualche modo in crescita, poi c'è stata una brusca frenata, ovviamente è un settore che da questo punto di vista fa molto gola. E finalmente, dopo una telenovela che è durata diversi mesi, sembra arrivare qualche buona notizia. Il TAR del Lazio, come ricordavi tu, la scorsa settimana ha deciso, sul ricorso di alcune aziende produttrici di sigarette elettroniche, liquidi, aromi, sono appunto rappresentate da ANAF e Confindustria, con il supporto anche di Fieser Confesercenti, hanno sospeso almeno fino al 19 febbraio la imposta del 58,5%. Cioè comunque li fanno stare ancora un po' l'infibrillazione. Esatto, però li lasciano sul li cucinano a fuoco lento. Certo. A fuoco lento. Però accanto a questo ci sono delle altre notizie interessanti, perché i giudici amministrativi hanno deciso anche un altro paio di cose, o meglio, ipotizzano, paventano il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale per decidere sulla costituzionalità di quella che è evidentemente una tassa che frena il libero mercato e comunque pone dei vincoli ad un settore a discapito di altri settori, e addirittura anche di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia Europea per decidere se c'è ovviamente un trattamento diverso rispetto, e sicuramente c'è, rispetto agli altri paesi e aziende che operano negli altri paesi europei. Certo, perché poi non ci sono mai mezze misure. Qua siamo passati dal niente ad una tassa del 58%, così, tanto per gradire, non del 2, del 3, del 5, no Cosimo? Non mi sembra ci sia stata questa gradualità. Esatto. Da 0 a 58. In effetti c'erano stati anche molti emendamenti e quindi molte proposte anche dal mondo dei produttori di rendere graduale questa imposizione, o comunque cercare di trovare altre soluzioni anche per garantire in qualche modo un gettito fiscale che fosse in qualche modo congruo, mentre riducendo il numero di negozi, perché c'è stata sicuramente una crisi del settore, certo. La polemica si basa anche sul fatto che molte di queste entrate non arriveranno. Però fino al 19 febbraio possiamo stare tranquilli o col fiato sospeso, dipende come una uno vede. Di tempo, 8 giorni. E quindi magari Cosimo torna a trovarci. Ma tassazione la mettiamo un attimo da parte, rimangono ancora molti dubbi che noi abbiamo racchiuso nel nostro scioglilingua, che vedo che è piaciuto e allora lo rimandiamo. C'è chi smette di fumare e c'è chi fuma per non fumare. Ma cosa fuma chi fuma per non fumare? E chi fuma per non fumare, fuma o non fuma? Buongiorno al dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, soprannominato almeno qui a Cuore Denari il dottor Antifumo. Buongiorno dottor Boffi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Boffi, la posizione della comunità scientifica nei confronti delle sigarette elettroniche è stata, almeno agli inizi, un po' fumosa. Nel frattempo sono giunti a conclusione molti studi e attualmente la situazione sembra più trasparente. Essenzialmente due sono stati filoni di ricerca, uno sulla sicurezza delle sigarette elettroniche per capire se questo genere di fumo è esente da possibili rischi per la salute. L'altro invece filone voleva misurare l'efficacia della sigaretta elettronica come strumento per smettere di fumare. È corretto e soprattutto a quali conclusioni si è arrivati? Assolutamente corretto, possiamo sintetizzare dicendo che la scienza medica è al lavoro, spero che presto potremo dare dei risultati più completi di quelli che vi sono attualmente in letteratura. Noi come Istituto Nazionale dei Tumori abbiamo pubblicato un'importante revisione indipendente fatta in collaborazione con i luoghi di prevenzione di Reggio Emilia della Lega per la lotta ai tumori, in cui abbiamo un po' sintetizzato sulla rivista scientifica Tumori appunto lo stato dell'arte sulla sigaretta elettronica, su questi due focus che ha appena detto, i due dubbi principali, cioè se può far male a chi la usa e a chi lo circonda e se aiuta veramente la sigaretta elettronica a smettere di fumare. Le risposte su riviste scientifiche internazionali, devo dire, sono ancora limitate e non conclusive, però degli studi interessanti ci sono. Inquadrare il prodotto sigaretta elettronica, diciamo, tanto innanzitutto che non è un'impresa semplice, perché i modelli disponibili sul mercato sappiamo bene che si contano all'ordine di centinaia, sono provenienti da tutto il mondo, c'è anche la scivolosa vetrina di internet, come la definisco io, e dove chi si avventura a caccia di informazioni sulle sigarette elettroniche si trova a volte di fronte a pochi fatti e molte opinioni spesso contrastanti, però è sicuramente un fenomeno che non va criminalizzato, va studiato, ed è le ragioni dei pro direi che poggiano principalmente sul principio della riduzione del danno. Questo c'è sicuramente, perché se ci sono polveri fini, ultrafini, noi come Istituto dei Tumori stiamo proprio studiando intanto questo aspetto e spero che presto vi potremo dare dei dati inoppugnabili in questo senso. Sicuramente si parla di un inquinamento, un'emissione di sostanze potenzialmente dannose molto molto inferiore rispetto a quello di una sigaretta normale. E quindi, poi c'è tutto il problema dell'efficacia con gli studi che stanno continuando a uscire in letteratura. Avevamo già parlato in una trasmissione un po' di tempo fa dello studio neozelandese pubblicato su Lancet, in cui era stato confrontata la capacità di far smettere di fumare delle sigarette elettroniche rispetto ai cerotti della nicotina. Era stato visto che più o meno siamo sullo stesso livello, però è ancora uno solo studio, ancora studi forti con grandi numeri per inserire le sigarette elettroniche nelle terapie per smettere di fumare non ce n'è ancora sufficienza. Gli studi principali sono quelli fatti dall'amico professor Polosa dell'Università di Catania, che è uno dei massimi esperti in questo senso. Allora, promossa possiamo dire, dottor Boffi? Sì, diciamo che sicuramente merita la nostra attenzione, e è una cosa da verificare. Poi naturalmente la legge, secondo me, in queste cose dovrebbe seguire le scoperte scientifiche, non condizionarle, e che effettivamente la sua diffusione potrebbe, nel ritorno indiscriminato nei locali pubblici, potrebbe rischiare di compromettere i risultati di decenni della nostra lotta al tabagismo, resuscitando l'accettazione sociale del fumo e quindi aprendo la strada a un aumento le malattie fumo correlate. Questo non vorrei assolutamente che accadesse. Certamente. Dottor Boffi, la salutiamo e la ringraziamo per essere stati con noi. Grazie. Buona grazie giornata. Molte. Altrettanto. A presto. 800 24 00 24, svapate, perché siete riusciti poi a smettere? Credete di usare la sigaretta elettronica come un passaggio? Oppure vi state trovando così bene che pensate di optare per questa sostituzione? È in linea con noi il professor Riccardo Polosa, citato proprio dal dottor Boffi, esperto internazionale di tabagismo e malattie fumo correlate, nonché autore di uno dei primi studi che ha indagato la sicurezza e l'efficacia delle sigarette elettroniche. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Grazie. Ciao, professore. Buongiorno. Nicoletta. Professore, con il suo gruppo lei ha condotto questo studio clinico che ha un titolo molto chiaro: effetti delle sigarette elettroniche per la riduzione e cessazione della dipendenza tabacica. Allora, il titolo parla da solo, però lei ci deve raccontare a che cosa sono arrivati i suoi studi, quali i dati. La sigaretta è efficace per smettere o per ridurre il numero di sigarette fumate o per sostituire la bionda con le sig? Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziarvi di questa opportunità, soprattutto per fare chiarezza su un argomento molto dibattuto e abbastanza vaporoso, se mi permettete. È il termine giusto, professore. Ecco. Lui infatti ha detto vaporoso. Per tutte, ricordando ai radioascoltatori tutti che le mie non sono opinioni, bensì sono il frutto di profondi ragionamenti e riflessioni che sono state maturate con un pool di esperti internazionali. Se io mi piccherò di esprimere opinioni, lo dirò aprioristicamente. Chiaro? Andiamo allo studio Eklat. Sì. È lo studio di cui stiamo parlando, che è stato il primo studio mondiale pubblicato sulla sicurezza e efficacia di questi prodotti. Ora, a differenza dello studio citato dall'amico Boffi e pubblicato sul Lancet, questo studio ha un vantaggio procedurale non indifferente. I pazienti, cioè i partecipanti a questo studio, erano persone selezionate in modo assolutamente random e che non volevano smettere di fumare, che poi rappresenta la larga maggioranza delle persone con cui dei fumatori con cui ci andiamo a interfacciare, solo sì. Che una piccola minoranza, diciamo l'1-2%, raggiungono i centri antifumo. Per cui diciamo la nostra illuminazione, quella mia e dei miei collaboratori, era stata quella di focalizzare su una certa tipologia di partecipanti, cioè le persone che non volevano o dichiaravano di non voler smettere di fumare. Il dato essenziale che è stato prodotto una sigaretta di prima generazione, quelle che noi chiamiamo siga-like perché sono molto simili alle sigarette, era un prodotto della società Categoria, determinava una riduzione del vizio del fumo nel 10% dei partecipanti. Tanto per chiarirci, 10% a 12 mesi vuol dire che questi prodotti sono molto più efficaci dei prodotti normalmente utilizzati nei centri antifumo. E per poterlo contrastare con quello che è l'effetto della prevalenza del tabagismo in Italia, il dato ISTAT ci dice che la riduzione del tabagismo su base annuale è dello 0,03%. Chiaro? Qual è la differenza? I dati parlano tra da soli. Tra l'altro, e chiudo, un altro 10-15% dei pazienti avevano ridotto il numero di sigarette fumate su base giornaliera in modo consistente. E soprattutto stiamo parlando di un modello antesignano, era un prodotto del 2009 non molto efficiente rispetto ai nuovissimi prodotti oggi disponibili, e sono convinto che se dovessi ripetere questo stesso studio nelle stesse condizioni ma con dei prodotti e con degli aromi più interessanti, queste percentuali si potrebbero anche triplicare. E penso che non ci vuole un genio o un matematico per capire che impatto possa avere questo sulla salute pubblica. E quindi insomma speriamo di aver convinto tutti ancora un po' gli scettici, no? Sull'utilizzo della sigaretta elettronica. E comunque volevo dirti, Nico, io non sono qua per convincere gli scettici, sono qua per studiare un fenomeno, certo. Un fenomeno in evoluzione, spero solo che le tasse, le leggi non pongano delle limitazioni all'innovazione e allo sviluppo del prodotto, perché solo con l'innovazione e lo sviluppo miglioreremo sicurezza e chiamiamola efficienza, non efficacia. Che abbiamo... L'efficacia si dice per i farmaci, l'efficienza si dice per i prodotti di consumo. I trend che funzionano, lo Stato è sempre capace di intercettarli molto bene per poter fare qualche prelievo. Il professor utile. Polosa rimane con certo. noi fino alle ore 12, per cui vi invitiamo, se avete delle domande, dei dubbi, se volete raccontarci la vostra esperienza e confrontare i vostri dati, di chiamare il nostro numero verde, come hanno fatto Gianluca che ci chiama dalla provincia di Lucca, o Marco che ci chiama da Ferrara. Esatto, allora cominciamo con Marco, perché visto che ci tempesta sempre sempre di SMS. Questa volta, track, abbiamo trovato l'argomento giusto per convincerlo a premere con il ditino i numeri sul suo telefono. Marco, buongiorno e benvenuto. Marco, sì, da Ferrara. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno alle mie, buongiorno alle mie regine. Eccole qua. Il nostro fante di picche. Sì, ho trovato il tempo per chiamarvi. Eccolo qua. No, niente. Allora, volevo dirvi innanzitutto che io sono già uno svapatore ormai da 2 anni. Sì. Ho smesso di fumare. Perché fumavo un pacchetto al giorno, adesso ho smesso completamente. Dal punto di vista dei denari, diciamo che la sigaretta elettronica ha un notevole impatto, anche con questa maxi tassa del 58%, comunque ci sarà un notevole risparmio per il portafoglio. Ma per chi fuma, ma non per chi ha i negozi, Marco, il problema è per chi ha aperto i negozi, e poi affronteremo anche questo argomento. Quello sì, è un grosso problema, perché un amico che l'aveva aperto l'ha già chiuso, perché non ci sta dentro quei costi. Mm-hmm. Dal punto di vista dei cuori, io cito solo le parole di uno dei massimi esponenti che c'è nel campo tumorale, che è il professor Veronesi, che lui ci vive con i tumori degli altri, purtroppo è brutto dirlo così, però ci vive con i tumori degli altri. E lui ha detto che la sigaretta elettronica non è cancerogena perché non c'è combustione. Soprattutto questo mi viene, lo dico a chi mi chiede, non è cancerogena. Sì, ricordiamo che l'OIEO e quindi del professor Veronesi, con gli studi del professor Cipolla, hanno testato, ma il professor Polosa mi può sostenere, una sigaretta senza nicotina, ti fumo senza nicotina. Professor Polosa. Sì, chiaro, nello studio a cui ci riferivamo prima, un braccio di controllo era con una sigaretta elettronica senza nicotina. Ecco, noi parleremo anche di sigarette non entro nello con... specifico, certo. Perché è molto complesso, ma anche quelle senza nicotina hanno dato dei risultati apprezzabili, nell'ordine del 4-5%. Noi parleremo di sigarette con e senza nicotina e come utilizzare, per le persone che ricorrono alla sigaretta elettronica con la nicotina, come dosare, se è il caso di dosare questa sostanza. 800 24 00 24, quindi il nostro, abbiamo sentito la voce del nostro fante di picche. Sei emozionata? Sono un po' emozionata e sono contenta soprattutto che ci abbia raccontato un'esperienza positiva come quella che peraltro ci stanno raccontando anche gli altri ascoltatori che utilizzano altri canali per interagire con noi. C'è Pierangelo che ci ha scritto una mail di cui io detengo il controllo da questa parte del tavolo. Pierangelo ha utilizzato invece per disaffezionarsi al fumo una terapia diversa, una terapia di gruppo promossa dalla sua azienda sanitaria locale vicino casa. Comunque, insomma, l'importante è provarci, direi, no? Io dico di sì, e anche sicuramente il professor Polosa ci invita a smettere, a dare un taglio, ma andiamo a sentire che cosa ci racconta Gianluca, che ci chiama dalla provincia di Lucca. Buongiorno. Buongiorno, salve Gianluca, tutti. Sa che devo salutarla? È durata poco questa affare. No, Gianluca, volevo dire, lei ci fa da cavaliere e ci accompagna e ci sentiamo subito dopo i mercati? Benissimo. Se fosse interessato, problema. Le racconto. Grazie. Anche un pochino la giornata di borsa. Cuore e denari. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. E torniamo a parlare di lei, della sigaretta elettronica, che ne ha viste di tutti i colori. È passata di bocca in bocca tra detrattori e sostenitori. 800 24 00 24. Anche il pubblico di Cuore Denari si divide. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Polosa, Cosimo Colasanto, che ci aiuterà. Cosimo, tu in effetti sei stato il primo autore a individuare nello svapo l'occasione per scrivere un manuale. Certo, era un fenomeno che in quel momento stava cominciando ad esplodere e diffondersi, però ci sono, come appunto il professor Polosa ha precisato, molti punti oscuri, riguardano anche gli aspetti sul contenuto, sulla fabbricazione, quindi serviva in qualche modo cercare di, anche con un manuale che non fosse scientifico, da un punto di vista e non fosse solamente tecnico, individuare e chiarire alcuni di questi punti. Ecco, se avete bisogno di chiarimenti non dovete far altro che chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 come ha fatto Gianluca, che ci ha accompagnato. Esatto, gli abbiamo chiesto di fare un po' da cavaliere in questo frangente in cui ci siamo occupati dei mercati finanziari, ma dobbiamo ritornare a questa abitudine, Gianluca, no? Lei l'ha abbandonata, è riuscito? Allora, prima di tutto cavaliere mi viene da ridere, perché tra l'altro sono un cavaliere semiprofessionista. Perché? E uno degli argomenti su cui volevo parlarvi era proprio il miglioramento del fiato usando la sigaretta elettronica. Ah. Io ero un fumatore di pipa, il mio tabacco hanno smesso di importarlo, gli altri tabacchi facevano schifo, no? Mi stavo suicidando con tabacchi schifosissimi. E poi ho scoperto la sigaretta elettronica, ho fatto un po' di prove con gli aromi, ho trovato quello giusto, in 20 giorni ho eliminato la nicotina e adesso è un anno che svaporo felice e senza nessun rimpianto per la vecchia pipa, tutto il suo pattume, zozzume, cenere, eccetera, eccetera. Ho migliorato la respirazione notevolmente in un anno circa. E non ogni, cioè, per me la sigaretta elettronica è stata una svolta, una svolta e una felicità, anche perché c'è una cosa che io trovo veramente schifosa ed è questa. Uno può presentarsi in un albergo sbronzo, briao completo, no? Vomitare nella hall. Sì, speriamo anche di no, comunque. No, dico, può vomitare nella hall, no? Oppure farsi una puntura di cocaina, di eroina o una tirata di cocaina, nessuno trova nulla da dirci, perché fuma in camera è un criminale. Adesso con la mia sigaretta elettronica priva di nicotina e solo vapore, litigo felice con tutti perché non è niente, è solo vapore. E questa è stata per me una grossa felicità. Eccolo qua. E senti come si diverte lui. Sì, vedi contenta di averci chiamato, averci raccontato anche un po'. Sì, effettivamente l'impatto sugli altri è un altro tema molto interessante che magari questa mattina potremmo... Può litigare e avere ragione. Esatto. Professor Polosa, che cosa le racconta la testimonianza di Gianluca? È passato dalla pipa alla sigaretta elettronica. Ci ha detto che ha iniziato a fumare quella con la nicotina, poi da quella con la nicotina è passato senza nicotina e adesso svappa felice e contento perché, insomma, non inquina l'ambiente circostante, quindi non si sente neanche in colpa. Penso che l'esperienza del radioascoltatore, molto simpatico, anche la sua, il suo avvicinamento della scena dell'ubriaco che vomita dell'albergo mi è piaciuta molto. Ci piacciono. Il comportamento del vostro radioascoltatore è paradigmatico del comportamento di molti svapatori. Volevo sottolineare un punto molto importante, che è quello della scelta degli aromi, della possibilità di scegliere il dosaggio, chiamiamo dosaggio, il livello giusto di nicotina nel prodotto che più si avvicina alle esigenze dell'utilizzatore. Questo è fondamentale perché abbiamo visto, esistono delle evidenze in letteratura, che questo aspetto è veramente uno degli aspetti principali che permette lo sdoganamento dal tabagismo al vapagismo. Ed è assolutamente incredibile rilevare che la direttiva dei prodotti del tabacco della Comunità Europea cerchi di bloccare queste importanti fenomenologie di passaggio. Per esempio si vuole vietare l'uso degli aromi di ingredienti nei ricaricabili, una cosa veramente scandalosa, oppure porre un limite ai livelli di nicotina. Noi stiamo cercando di caratterizzare in uno studio scientifico quella che è la tipologia, il fenotipo del fumatore in base alla sua marca di riferimento nel passaggio a un prodotto di tipo digitale. E questa sarà la nuova frontiera, secondo me, della ricerca scientifica nell'ambito della sigaretta elettronica. Volevo anche chiosare, se mi permette Nicoletta, sul discorso del rischio dell'overdose da nicotina, che è importante ricordare che non esiste, perché ogni fumatore non fa altro che titolare il livello della nicotina in base alle sue esigenze. Sue esigenze che vuol dire? Che se io ho una sensazione di stanchezza, intontimento, confusione, il tono dell'umore non ci sta, ecco, io assumo nicotina. Se invece ho un senso di nausea e vomito, automaticamente, a meno che non sia uno schizofrenico o un paziente affetto da malattie psichiatriche, io immediatamente smetto di svapare. Tra l'altro il vantaggio della sigaretta elettronica è che, portandosela sempre appresso e non dovendola accendere e consumare tutta, permette di dare quelle 3, 4, 5 boccate che determinano un limite stabile di nicotina o di aroma, perché secondo me un giorno ci sarà l'aroma, la madre di tutti gli aromi, che permetterà di sganciarsi anche completamente dalla nicotina. Poi una notazione che ha fatto Cosimo prima relativamente alle sostanze che noi non conosciamo all'interno di questo vapore, che non è solo vapore acqueo, ricordiamo, è un vapore di glicole propilenico oppure è vapore di glicerolo vegetale, ok, glicerina vegetale, che sono assolutamente innocui, o perlomeno sono innocui negli studi in medio e lungo termine, e comunque sicuramente migliaia di volte più innocui del comparatore naturale, che è la sigaretta convenzionale. Ricordiamoci che questi prodotti li comprano i fumatori, non i non fumatori. Non esiste una documentazione sul fatto che questi prodotti vengono comprati da persone che non fumano. Le comprano tutti i fumatori, questo è molto importante. Sono i fumatori che svapano. Allora, ci sono tante notizie da come dire, prendere in considerazione e da condividere anche con i nostri ascoltatori. Una, in una mail molto lunga ed articolata, ci arriva da Stefano da Brindisi, che ci segnala che il 16 febbraio ci sarà lo Svapo Day a Firenze, e Stefano dice: io pur vivendo a Brindisi ci sarò, perché facciamo quanto in nostro potere per salvare la sigaretta elettronica. E nella mail ci sono tutti i suoi commenti relativamente anche alla questione della tassazione che abbiamo affrontato appunto in apertura di trasmissione. Seconda cosa, mai ci saremmo immaginati che questo termine svapare finisse anche in una delle più autorevoli enciclopedie, no? La Treccani, Nicoletta. Sì, questa parola viene inserita fra i neologismi del 2013. Chi l'avrebbe mai immaginato? Esatto, e quindi nella Treccani, nel paniere Istat, la sigaretta elettronica, due belle posizioni se le aggiudicate. Allora, ai nostri ascoltatori, se avete un neologismo, svapo è già andato. Se avete un neologismo che vorreste candidare per l'edizione del 2014, perché non scrivetecelo magari in 140 caratteri all'account Twitter @cuoredenari? Potete anche inventarvelo, naturalmente, non dovete prendere spunto da qualche cosa di esistente, dalla sigaretta elettronica, che così facciamo contenta però Simona. No, non ha tante S, visto quantomeno questo. No, vedi, non ha le S, ma c'ha una T che non è ben detta. E allora, a proposito di parole, chi abbiamo in linea, Nicoletta? Forse dobbiamo presentarlo. A proposito di parole, abbiamo in linea chi ha messo la parola fine al fumo nei locali pubblici, il professor Girolamo Sirchia, ex ministro della Sanità, attuale presidente della Consulta Nazionale sul Tabagismo. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Professore, grazie per essere con noi. Voi. Questa sigaretta elettronica, che si tratti di tassazione o di divieto di fumarla in pubblico, alla fine sembra che la spunti sempre, o è sempre tra coloro che sono sospesi, come quei ragazzi che vanno a scuola, sembrano sempre a rischio bocciatura, ma poi vanno sempre avanti. Professore, lei che cosa ne pensa? Ma dunque, innanzitutto penso che il danno provocato dalla sigaretta elettronica è molto inferiore a quello provocato dalla sigaretta tradizionale. Questo è già una cosa molto vantaggiosa. Sì. E quindi, secondo, penso che ci sono ormai dati che dicono che, come strumento di riduzione del danno, che è un concetto importante per la salute pubblica, sembra funzionare. Cioè, è vero che la droga, cioè la nicotina, essendo una droga, continua ad essere aspirata anche con la sigaretta elettronica per quelli che la usano, però il danno provocato dal tabacco è sicuramente maggiore, quindi si riduce questo danno con la sigaretta elettronica. Sembra che sia anche, è stato pubblicato su una rivista importante, Lancet, che come efficacia è superiore o uguale ai cerotti famosi. Sì, ne abbiamo parlato col dottor Boffi. Per cui, professore, fermiamoci qua. Fino a questo momento anche il professor Sirchia dice perché no. Sicuramente rispetto alla bionda, meglio la sigaretta elettronica. Esatto, però e noi è anche adesso, vero. Però, esatto, però volevo intanto anche anticipare che magari faremo un commento su chi su Facebook in particolar modo ci racconta che ha provato, ma in questi casi appunto non ha funzionato. Chissà perché. Cuore e denari. E siamo ritornati insieme a noi ci ha raggiunto a cuore denari il professor Girolamo Sirchia, con cui stiamo commentando un po' i vantaggi e i limiti della sigaretta elettronica. Ma professore, non pensa che la sigaretta elettronica, che adesso allora non è ancora chiaro se si può fumare o non fumare, sì, nei, esatto, luoghi pubblici, perché anche questa, come la tassazione, mm-hmm, perché c'era il divieto con il decreto istruzione convertito in legge, era stata cancellata la disposizione, no, per, e quindi hanno detto si può svapare, mm, ma adesso dal Salva Roma sembra che, certo, non si possa più, però, mm, naturalmente questa, la richiesta è stata accolta dalla Commissione Bilancio, se passerà anche alla, sì, Camera, esatto, non si, un rompicapo legislativo, un po' come IMU, Banca d'Italia, tutte queste cose qua, quindi, tutte le, sai, leggi vengono usate per infilarci dentro provvedimenti che non ci azzeccano niente, come direbbe Di Pietro. No, ti è piaciuta? E in questa situazione così, sì, fumosa, la gente fa un po' quello che vuole. Certo. Professor Sirchia, ma secondo lei l'idea di permettere di svapare in pubblico non rischia un po' di mandare in fumo quel così concetto che invece era stato ben ribadito dalla sua legge, che era quella di vietare il fumo nei luoghi pubblici, ma anche per dare un colpo al fumo come comportamento, come stile di vita, come abitudine di vita? Sono assolutamente d'accordo. In realtà io credo che in pubblico non debba essere utile, nei luoghi pubblici non debba essere, nei luoghi pubblici chiusi non debba essere utilizzata neanche la sigaretta elettronica alla stregua di quella vera, quindi anche senza nicotina, cioè non è un, sì, problema, è per inquinamento, sì, comunque è un'immagine che si era cancellata, quella del fumatore che butta in giro nell'ambiente del fumo, anche se questo non è fumo. Era un'immagine che era finalmente cessata, adesso questa la ripropone, e quindi come sicuramente è una brutta cosa. Io sarei assolutamente negativo sull'uso nei locali pubblici della sigaretta elettronica, anche se priva di nicotina. Facciamo una specie di sondaggio tra i nostri ascoltatori. Facciamolo. Sigaretta elettronica nei luoghi pubblici, sì o no? 800 24 00 24, naturalmente non avrà valore statistico, sì, certo, ma intanto però prendiamo un po' il polso della situazione. E ti dico un'altra cosa che testimoniano i nostri ascoltatori, che anche in questo caso può essere un po' utilizzata questa testimonianza come misurazione del polso della situazione. Un ascoltatore, Lorenzo, su Facebook ci scrive, a parte che ci saluta, salve ragazze, e solo per questo merita di essere letto questo messaggio. Allora dice: tramite mio nipote ho avuto la testimonianza di giovani ragazzi che per moda cominciano a fumare le sig pure con nicotina. Che scemenza, dice Lorenzo. Per la mia esperienza personale, in questo caso, dice, non mi ha aiutato. Dopo 12 anni di fumo accanito ho smesso per 5 mesi, ma non per merito della sigaretta elettronica. Poi non ho più resistito, ho ricominciato, però in questo caso con la pipa. Sono solo in questo modo riuscita a non toccare più una sigaretta. Ma quando non funziona, che cosa succede? Chi facciamo rispondere, Nicoletta? Ma possiamo far rispondere il professor Polosa e chiedere poi a Cosimo Colasanto se può dare delle indicazioni per scegliere la sigaretta elettronica che fa al caso nostro. Esatto. Professor Polosa, abbiamo pochi minuti, ma ce la facciamo? Mamma mia, sempre con questa limitazione del tempo. Ascoltate un attimo, volevo un attimo fare una riflessione mia personale, quindi un'opinione, sì, su quanto detto da Girolamo Sirchia, che è un internista come me, lo ricordo, riguardo alla destabilizzazione che può portare la sigaretta elettronica nei luoghi pubblici. Io non sono completamente d'accordo, sì, su questo punto, e vi spiego perché. Uno degli elementi che risulta prevalente nelle indagini scientifiche fatte su campioni di svapatori denuncia che uno dei motivi per cui sia abbastanza così popolare questo prodotto sia dovuto al fatto che la si può fumare in ufficio e in luoghi dove normalmente il fumo è proibito. Ecco, se io posso liberamente fumare il prodotto digitale, è chiaro che faccio da traino, da testimonial a altri fumatori di tabacco convenzionale che si potrebbero sdoganare, potrebbero sdoganare il loro tabagismo in vapagismo e quindi utilizzare un prodotto contenente sì nicotina ma con un rischio espositivo di dalle 100 alle 1000 volte superiore. E quindi non so se ho reso l'idea, sì, non destabilizza la legge antifumo ma la rinormalizza in un certo senso. Bisogna riflettere un po' su questi aspetti, ecco. Poi per quanto riguarda il fatto che non funzioni, è chiaro che non a tutti piace lo yogurt biologico, quindi la sigaretta elettronica non è la panacea di tutti i mali, per alcuni va bene, per altri non funziona. È chiaro che quando io parlo di innovazione e sviluppo di questi prodotti è importante cercare di capire il comportamento e soprattutto gli aspetti sensoriali dei fumatori per cercare di avvicinarli molto di più a questo prodotto che ha delle straordinarie capacità di miglioramento della salute pubblica. Sono sicuro, con Cosimo abbiamo discusso ampiamente dell'aspetto come accoppiare meglio il fumatore a un certo determinato tipo di prodotto. Devo dire che questo è un ambito di ricerca veramente affascinante, del quale conosciamo ancora molto poco, ma vi posso portare un semplice esempio. Se per esempio una donna giovane fuma una Kenta al mentolo light, sicuramente non dovrà andare a utilizzare un liquido contenente nicotina a 24 mg ml. Viceversa, se un adulto fuma una Marlboro rossa è molto meglio accoppiarlo con un prodotto tabaccoso ad alto contenuto nicotinico. Intanto stanno arrivando al 349-238-6666 i messaggi contro o a favore dello svapo in pubblico. Al momento sono più quelli contro. Sì. Professor Sirchia, le do questo dato, almeno cuore denari, gli ascoltatori che si sono pronunciati sono contrari al momento allo svapo in pubblico. Faccio fare solamente una piccola pillolina all'ospite che ci accompagnerà nella seconda parte del programma, il dottor Italo Bustoli, segretario generale di Asso Franchising. Buongiorno a tutti voi. Eccoci qua. Rapidamente, il bilancio qual è tra aperture e chiusure di negozi di sigarette elettroniche? Positivo o negativo? Bustoli, in 5 secondi? Decisamente negativo per il momento. Perfetto, di questo parleremo tra poco. Cuore e denari. Ma anche la cinematografia, perché non ne abbiamo approfittato per questa puntata, ma sul tema della potenza delle lobby del tabacco c'è anche Thank You for Smoking e quindi oltre alla musica anche qualche film che ci può aiutare a capire un po' bene il tema di cui stiamo parlando questa mattina. L'avrete capito bene, Nicoletta, sigaretta elettronica sì no, mi pare che nel nostro sondaggione le cose siano molto chiare. Allora sì, i nostri ascoltatori si sono espressi a favore o contro il fumo della sigaretta elettronica, quindi il vapore nei locali pubblici, e devo dire che i contrari sono di gran lunga superiore ai favorevoli. 800 24 00 24. Abbiamo salutato il professor Polosa dell'Università di Catania, abbiamo salutato il professor Sirchi, abbiamo invece tenuto stretto il nostro Cosimo Colasanto, che resta con noi sino al termine della trasmissione, per rispondere alle domande, sono tante, che ci state facendo su come scegliere la sigaretta elettronica ideale, come quanto dura, quanto spendere, insomma tutte quelle indicazioni che possono davvero fare la differenza in termini anche di denari. Di denari, esatto. E invece per introdurre il prossimo argomento direi che approfitto del bel messaggio che ci ha mandato Pier, medico di Verona, con i complimenti naturalmente, che ci scrive: è interessante notare come una cosa che può migliorare la salute pubblica, anziché essere promossa, venga tassata. Salva Danaio. Non si può cercare un negozio di antiquaria suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Oggi siamo partiti parlando del boom del commercio delle sigarette elettroniche che ha portato all'apertura di tanti punti vendita in Italia e poi anche alla loro chiusura con la perdita di molti posti di lavoro. Ricordiamo che nel 2012, vi do questa cifra molto indicativa, erano 6.000 i negozi operativi, ora circa il 60%, non il 10, non il 15, non il 20, il 60%, più della metà, ha chiuso i battenti perché si è ridotto del 50% il fatturato legato alla sigaretta elettronica che nel 2012 era stato di circa 350 milioni di euro complessivamente, ma soprattutto sì, è inasprita la tassazione. Ma non di solo svapo vive il franchising. Questa scelta è praticata spesso da chi per la prima volta vuole mettersi in proprio, vuole aprire un proprio esercizio e per farlo sente di essere in questo modo più tutelato dall'insegna a cui sceglie di affidarsi. Può valere per la biancheria intima, Deborah, noi lo sappiamo bene. Certo. Le agenzie immobiliari, il ristorante. Esatto. Allora io direi di fare così. Sì, facciamo l'esperimento. Affacciati alla finestra. Bella mia. Ta-tan. Affacciatevi alla via sotto casa e potrete vedere con i vostri occhi quello di cui stiamo parlando oggi. Là dove c'è un marchio c'è un franchising. Esatto, ci possono Scriveteci. Essere i negozi monomarca, allora poi cercheremo di capire che differenza c'è anche tra le due modalità di commercializzare. La strada del franchising è conosciuta, ma non per questo priva di insidie. Ne parliamo oggi con il dottor Italo Bussoli, segretario generale di Asso Franchising, che abbiamo già sentito con una breve pillola nella prima parte del programma. Buongiorno e di nuovo ben trovato. Buongiorno a voi ancora, grazie. Dottor Bussoli, hanno sentito la crisi o sono uno strumento anticrisi? Mm-hmm. Il franchising? Sì. Ma il franchising potrei dire che è uno strumento anticrisi, perché in questo ultimo periodo in cui tutti abbiamo subito le conseguenze di una crisi generalizzata, il franchising ha perso pochi punti, comunque è sempre rimasto con l'asticella sopra la parte attiva. E questo vale anche per i negozi di sigarette elettroniche, dottor Bussoli? Andiamo subito al tema di oggi. Ahimè no, quelli direi che hanno subito una grossa perdita determinata dalle cose che avete detto voi prima, molto correttamente. E qui c'è veramente un fatto specifico di un determinato settore, però se parliamo del franchising in generale, per tutti gli altri settori, sono più di 30 i settori del franchising, non ci possiamo proprio lamentare. Ma senta, c'è Confindustria che sta facendo una battaglia contro la questione della tassazione. Voi come franchising avete dato il vostro contributo a questa battaglia contro la tassazione che si va inasprendo? Noi l'abbiamo data partendo da due concetti fondamentali. La prima è la libertà, legata naturalmente a concetti che siano basilari, di rispetto della salute, e mi sembra che in linea di massima i concetti sono stati molto chiari. E il secondo è la libertà di intraprendere comunque, perché se c'è la possibilità di fare un'attività in franchising per questa tipologia di prodotto, ben venga, perché no? Mm-hmm. Andiamo a sentire Marco, ci chiama da Voghera e ci aiuta sicuramente con la sua testimonianza ad arricchire la nostra discussione. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. E innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione. Grazie Marco, ci dica. E oggi, guardi, per caso sono salito in macchina e ho sentito che parlavate del mio argomento. Mm-hmm. In quanto io sono uno dei soci, diciamo, del marchio pioniere in Italia di questo fantastico prodotto. Mm-hmm. Sì. E qui voi fate perché benissimo. Perché senti, loro sono soci, giusto Marco? Sì, io sono uno dei titolari di un noto brand italiano, che non si può fare pubblicità, ovviamente non voglio farla. Qui il discorso è molto semplice, voi state facendo una trasmissione bellissima. Il fatto è uno che lo Stato questo prodotto lo vuole uccidere e noi stiamo combattendo per non farlo uccidere. Marco, le posso chiedere quanto ha investito per intraprendere questa attività e quando ha cominciato? Nel 2009. Del 2000 e? Nel 2009, sì. Siamo stati i primi. E adesso siamo in battaglia, facciamo parte di queste aziende che hanno proposto ricorso al TAR, che è stato accolto in prima istanza con la sospensiva immediata di questa legge assurda e folle, che poi, perché non si possono dire determinate cose, è meglio non dirle, ma si sa benissimo perché è stata fatta questa cosa. No, ce lo dica Marco, perché noi non siamo titolari di un negozio di sigarette elettroniche, certe dinamiche. No, ce lo dica perché quando... così prende appunti anche Cosimo Colasanto, che dovrà scrivere a questo punto un secondo libro. Allora, questo caso vuol dire che quando da un giorno con l'altro un governo decide di mettere una tassa del 58,5% sul prezzo al pubblico, IVA compresa, questo vuol dire che noi dobbiamo dargli anche il 22% di IVA, il prodotto viene tassato più dell'80%, poi ci si mettono i dazi doganali per poter sdoganare il prodotto del 3,7%, poi ci si mette l'istituzione dei depositi fiscali come il tabacco, che implicano il rilascio da parte dei produttori di una fideiussione di 2 mesi di fatturato. Quindi cosa c'è dietro tutto questo disegno secondo lei? Ci sono le lobby. Certo, vabbè, ma l'abbiamo detto anche prima, Marco, esatto, quindi sono parole che si possono... Sono saliti in macchina, tardi, però certo. Anche il discorso dello svappare nei locali pubblici o meno. Lei è contrario, naturalmente, o favorevole? Io sono anche favorevole perché so benissimo di cosa è composto il liquido, c'è uno studio venuto dall'America 3 settimane fa che hanno fatto un test, e lo potete vedere su qualunque sito web, che hanno fatto proprio l'ultimo test, svappare in una stanza chiusa e fumare in una stanza chiusa. Vabbè Marco, però a me da fastidio per esempio uno che mi svappa davanti, locale chiuso o all'aperto. Detto questo, poi bisogna vedere appunto dal punto di vista legislativo come questa questione deve essere disciplinata. Ce lo facciamo Cosimo, raccontare? Ce lo racconti tu, allora si svappa in pubblico, non si svappa in pubblico, ognuno fa quello che vuole nell'attesa di, a che punto siamo? Allora, in realtà appunto come dicevate giustamente voi, la situazione è un po' ingarbugliata, nel senso gli ultimi mesi sono stati vissuti, per utilizzare un termine un po' cinematografico, pericolosamente sulle montagne russe. Allora, allo Stato il divieto è ovviamente a scuola e anche negli ambiti di pertinenza della scuola, quindi nei cortili, corridoi, bagni, corridoi, esattamente. Dove si fumava? C'era stata appunto anche l'introduzione del divieto sia nei luoghi pubblici che di promozione e pubblicità, che in questo momento sembra essere sospeso, nel senso che è, come dire, entrato in un labirinto di emendamenti e di altre regolamentazioni. In realtà però io, se posso aggiungere brevemente un dato rispetto a questa, alla questione appunto dello svapo nei luoghi pubblici, io devo dire che gli svapatori che stanno crescendo anche come, oltre che come numero, anche come consapevolezza, sono stati i primi in qualche modo a schierarsi decisamente contro l'utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi pubblici, proprio perché questo uso indiscriminato poteva in qualche modo essere uno strumento per mettere al bando le sigarette elettroniche. E così aggiungo anche una parola per il vostro quiz su Twitter dei neologismi, la parola dragoni, nel senso che sui forum e sui siti internet gli stessi svapatori chiamano quelli che utilizzano la sigaretta elettronica, a volte anche potenzialmente dando fastidio, come dicevi giustamente tu Nicoletta, agli altri avventori, li chiamano dragoni, nel senso come i dragoni sputano fuoco all'interno di una stanza chiusa, un pub, oppure potrebbe essere un ufficio. Quindi in questo momento le regole di buona educazione dovrebbero guidarci in questo senso. Cosimo, allora, dragoni versus elettropippata, che è quella che ci scrive il neologismo che vorrebbe candidare Ale. 800 24 00 24. Anche se vi accarezza l'idea di aprire un negozio in franchising, non necessariamente di sigarette elettroniche, ma anche per esempio di abbigliamento. Tu cosa lo apriresti? Ma nella ristorazione, naturalmente, che domande, lo sai che io dove si mangia ci sono sempre. E comunque bussoli intanto in termini generali, poi magari se anche un dato sul negozio di sigarette elettroniche lo raccogliamo volentieri. Qual è l'impegno economico che un neo imprenditore deve mettere in campo per affiliarsi ad una catena di franchising? Ma guardi, la forbice è molto ampia, obiettivamente. Ecco. Comunque dico molto ampia perché si va, tanto per essere chiari, da 15.000 euro a 2 milioni di euro, quindi si immagini lo spazio. No, in quali settori, per esempio, si spende così poco e in quali invece si deve mettere in campo una risorsa, una cifra così alta? Guardi, la base comunque tradizionale è un investimento che sta tra i 40 e i 50 mila euro, quindi con 40-50 mila euro si possono prendere tanti sistemi di franchising molto seri e anche molto performanti sul mercato. Chiaramente quando parlo di 2 milioni di euro parliamo di investimenti e di franchise nel campo dell'hotelleria, per esempio, piuttosto che della ristorazione. E quindi mi ha già scoraggiato subito se questa fosse stata la mia idea, ma a parte gli scherzi. Quindi siamo nella ristorazione, si devono mettere sul piatto appunto le risorse così importanti. Invece per il negozio di sigaretta elettronica, lei lo conosce, qual è l'investimento iniziale? Guardi, le dico la verità, noi che siamo l'associazione dei franchise, quindi rappresentativa del settore, allo stato attuale non abbiamo avuto nessun iscritto del settore specifico delle sigarette elettroniche, ma non è un problema del mercato delle sigarette elettroniche, ci mancherebbe altro, è un problema dell'associazione, nel senso che noi prevediamo di iscrivere un sistema in franchising solamente quando è attivo sul mercato da almeno 2 anni e ha performato con dei parametri che comunque diamo a chi si iscrive all'associazione. E il settore non ha ancora un'esperienza così consolidata, dice lei. Non ha ancora questa esperienza e, come abbiamo anche sentito, è falcidiato da altri sistemi che non gli permettono di vivere convenientemente e quindi non può sviluppare tutte le sue potenzialità. Senta, per chi avesse magari un neo imprenditore, no? Un piccolo accantonamento di questo tipo, piccolo per modo di dire, perché insomma 50.000 euro non sono certo bruscolini, certo, e volesse proprio rendersi indipendente dal punto di vista economico, non essere più un lavoratore dipendente, avventurarsi, diciamo, nel mondo del franchising, quali sono i passi che deve fare questo potenziale neo imprenditore? Ci dà qualche regola di base per muoversi con cautela, anche non magari, come dire, attirare anche marchi non proprio affidabili, no? Perché immagino che ci saranno anche nel vostro settore. Ma assolutamente, certamente sì. I consigli sono molto, molto semplici. Uno, cercare di informarsi preventivamente molto bene su che cosa effettivamente e con chi ci si vuole alleare. Per fare questo, cito Asso Franchising, perché comunque è un luogo dove si può vedere i marchi che funzionano e vedere quali sono i marchi con le loro caratteristiche e i loro pesi per valutare con chi andare. Primo comandamento. Il secondo è quello di scegliere bene, dopo aver scelto bene il franchisor, cioè la marca con cui andare, guardarsi bene tutte le parti di carattere legale che attengono a un contratto di franchising. Molta attenzione a non confondere ciò che è franchising da quello che non lo è. Questo è uno dei rischi che il mercato mette a disposizione, soprattutto per chi vuole fare l'imprenditore, il nuovo imprenditore. Ad esempio, quale può essere la trappola? La trappola è che ci sono dei contratti legittimi e previsti, come il licensing, per esempio. Faccio un esempio chiarissimo. Tutti sono convinti che Benetton sia in franchising ed è una gran marca? Certamente, forse sto facendo della pubblicità. No, vabbè, è un esempio. Un esempio, insomma. Benetton non fa franchising, fa licensing da tempo, il che è legittimo, è perfetto, ma quindi è un'altra cosa. Vogliamo spiegare rapidamente la differenza? E quale dei due lei, magari ci sottolinea un attimo le differenze? Lei naturalmente del franchising non ci potrà dire altro che... Ma io non voglio dire che franchising sia meglio di licensing, assolutamente. Il licensing è la concessione di una licenza d'uso del proprio marchio. Certo. Quindi è una cosa diversa dal fare un sistema a rete che preveda un marchio, il franchisor, che ti concede e ti dà una serie di opzioni, dalla formazione alla pubblicità, normalmente al format, cioè al sistema con cui viene fatto il negozio, anche agli arredi e qualche volta, sempre più spesso, fortunatamente per noi, e grazie anche all'intervento della nostra associazione, anche la possibilità di poter finanziare la startup, cioè l'avvio di un'attività. Quindi questo è quello che il franchising può mettere a disposizione, il buon franchising può mettere a disposizione. Bisogna stare molto attenti sul mercato a quelli che sono gli incantatori di serpenti. Occhi aperti, insomma. Ci sono anche 800 24 0024, vogliamo dare spazio agli ascoltatori, invitando naturalmente a scrivere, per se non siamo riusciti a rispondere a tante delle vostre domande, ma come sempre Cuore Denari rimane aperto. Loris da Potenza, buongiorno. Loris, eccoci, rapido perché siamo in chiusura, Loris, grazie. Niente, no, la mia precisazione era quella che comunque noi che abbiamo attività commerciali, quindi che abbiamo deciso di aprire un negozio di sigarette elettroniche, c'è da dire che le tasse comunque noi le paghiamo, quindi non è che siamo dei contrabbandieri che le tasse non le paghiamo, quindi basta pensare che su tutto quello che noi acquistiamo anche paghiamo già l'IVA, quindi il 22% di IVA più il 58,5% arriviamo all'82% quasi di tasse. Certo, no, ma Loris l'ha detto anche l'ascoltatore precedente, Marco da Voghera, ha ricostruito esattamente la situazione come sta facendo lei. Andiamo rapidamente, Giovanni da Vicenza. Giovanni, rapidissimo, grazie. Sì, pronto, buongiorno. Sono Giovanni da Vicenza. Io volevo portare la mia testimonianza. Sì. Io ho 51 anni e in occasione del mio 50° compleanno sono riuscito a smettere di fumare dopo più di 30 anni grazie alla sigaretta elettronica. Hai visto che bel regalo di compleanno che naturalmente le avrà fatto sua moglie, Giovanni, perché è inevitabile. Ma adesso lei continua con la sigaretta elettronica o ha detto addio anche alla sigaretta elettronica? Cioè, diciamo che la sigaretta elettronica è un'arma a doppio taglio nel mio caso, nel senso che quando inizi ad usarla per smettere di fumare devi usarla con molta parsimonia, altrimenti diventi dipendente dalla sigaretta elettronica. Cioè, si fa una sostituzione, lei l'ha sostituita quindi o poi l'ha lasciata? Io sono riuscito a lasciarla nel giro di una quarantina di giorni. Però è molto difficile, cioè molto difficile non diventare dipendenti di quest'altra sigaretta. Vedi, i 50 anni cosa portano? Aprono la mente. Chissà cosa mi succederà quando raggiungerò io questo traguardo. Comincio a fumare. Sei ancora molto lontana. Cosimo, grazie, devi tornare. Grazie, Cosimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a dottor Bussoli per essere stato con noi. In bocca grazie al lupo per la vostra attività. A presto. E scriveteci noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 11. Buona buonissima giornata.